already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. My administration continues to work with the Congress on a rescue plan. And we need a rescue plan. This is it's hard work. Our proposal is a big proposal. And the reason it's big and substantial is because we got a big problem. We also need to move quickly. Now, anytime you have a plan this big that is moving this quickly, that requires legislative approval, it creates challenges. Members want to be heard. They want to be able to express their opinions, and they should be allowed to express their opinions. There are disagreements over aspects of the rescue plan, but there is no disagreement that something substantial must be done. The legislative process is sometimes not very pretty, but we are going to get a package passed. We will rise to the occasion. Republicans and Democrats will come together and pass a substantial rescue plan. Thank you very much. Se il Presidente degli Stati Uniti chiede il bisogno assoluto di un piano di recupero, di un piano di salvataggio, se dice che le ragioni, the reason is big, la ragione è grande, è enorme, se arriva quasi a implorare di move quickly, di muoversi rapidamente, se dice che something substantial must be done, qualcosa di sostanziale deve essere fatto e deve essere fatto subito, se chiede che un pacchetto passi al più presto, se lo fa parlando per esattamente 80 secondi con un'aria così preoccupata, così corrucciata come non lo vedevamo da tempi memorabili in senso assai negativo, è segno che la questione è tutt'altro che risolta e l'orizzonte è tutt'altro che è chiaro. Ma grande in questo momento è la confusione sotto il cielo di Washington, grande la preoccupazione chiaramente della Casa Bianca, strani sono gli ostacoli che si deve trovare ad aggirare, particolari le dichiarazioni, ad esempio quelle del più vicino dei collaboratori, degli amici di John McCain, che si chiama Lindsey Graham, è un senatore della Carolina del Sud, che dice che invece le cose stanno andando, soprattutto naturalmente grazie all'operato di McCain, dice Graham, che sta facendo un formidabile lavoro lobbistico e che basterà che ci sia, si delinei una proposta e McCain monterà sull'aereo che lo porterà a Oxford, Mississippi, per il famoso dibattito in sospeso. Di fatto manca 1:20 al prossimo meeting economico, c'è il countdown su tutte le televisioni americane, e mancano 10:50 al dibattito che non si sa se si farà, un dibattito veramente becchettiano. E di che cosa poi si parlerà, veramente di politica estera? Ci sembra improbabile. La situazione è del tutto straordinaria, noi chiediamo aiuto, soccorso e chiarezza al nostro amico Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Benvenuto Mario. Grazie. Sì, direi colpi di scena a non finire, politica di altissimo livello, queste manovre repubblicane secondo me sono di natura esclusivamente politica. Tu hai fatto bene ad accennare all'ottimismo di Ramsey, che McCain forse avrebbe trovato un compromesso. La sorpresa di ieri è venuta proprio dai repubblicani, è venuto dal capo della minoranza repubblicana alla Camera, il quale all'improvviso alla Casa Bianca, quando tutti erano raccolti per firmare, per l'abbraccio collettivo che lo stesso Bush aveva anticipato nel discorso alla nazione, quando aveva implorato tutti all'unità, ecco, è venuto a guastare questo quadro. Come mai? Beh, la sensazione è che appunto facendo una manovra di questo genere che ha creato di nuovo un piccolo panico sui mercati, le borse sono di nuovo in crollo, la situazione è preoccupante, ecco che all'improvviso McCain emerge come il salvatore ed emerge come il salvatore prima del dibattito, un dibattito che ovviamente sarebbe stato a lui sfavorevole in quanto la situazione economica è una situazione grave, brutta, da panico, soprattutto perché alla Casa Bianca c'era George W. Bush, c'erano i repubblicani fino a 2 anni fa anche in controllo del Congresso. Ecco, quindi questo direi è lo scenario più ottimistico, appunto, che non ci siano delle pregiudiziali, diciamo, ideologiche, perché si è parlato anche di sostituire il piano con un altro piano, certo, che emettesse delle garanzie assicurative, ma ci siano invece delle pregiudiziali politiche, una strategia politica che punta a portare McCain al dibattito rafforzato. Ecco, ma ci dai un punto di vista su questo fronteggiamento inatteso, inaspettato, a meno che non si vada naturalmente ai massimi sistemi dove tutto magari si chiarisce assai bene, ma comunque tra questo Bush versione pompiere con questi interventi di pochi secondi sempre più allarmistici e questa posizione, bene o male, del suo partito, perché tale continua ad essere, che sembra fare un altro gioco. Beh, è un presidente in uscita, è un presidente da cui McCain e i repubblicani stessi, che comunque si presentano agli elettori per il rinnovo delle Camere, vogliono prendere le distanze. L'idea è che questo piano non venga soltanto dall'amministrazione, ma venga anche dai politici, dal Congresso e dai repubblicani. In questo momento gli interlocutori privilegiati dell'amministrazione erano stati i democratici, i quali controllano le Camere. I democratici avrebbero anche potuto decidere di andare al voto e di passare con la loro maggioranza, che avrebbe poi ottenuto la firma del Presidente, questa proposta di legge, isolando totalmente i repubblicani. Ma non se la sentivano, non se la sentivano, perché politicamente sarebbe stato un gioco troppo difficile. A quel punto avremmo avuto un quadro in cui erano i democratici che salvavano Wall Street e i banchieri e i repubblicani invece, certo, si ergevano a difesa della grande America, dei piccoli risparmiatori americani che stanno perdendo la casa. Quindi questo è un progetto che deve essere fatto insieme, i repubblicani lo sapevano e quindi stanno giocando la loro carta. Io spero, ripeto, spero, ma lo spero proprio per il bene comune, per il bene del sistema finanziario mondiale e quindi delle nostre economie, perché sappiamo che ci sono problemi purtroppo anche su banche europee, sappiamo che ci sono dei guai che potrebbero emergere anche dalle nostre parti. Certo. Ebbene, spero che si arrivi a un accordo, che si tolga il tappo a questo imbuto e che si riesca finalmente a chiudere questa partita e arrivare al dibattito di questa notte, che ci darà nuovo materiale, nuova suspense. Certo. È un nuovo capitolo di questa storia appassionante. Ecco, per chiudere Mario, mi sembra di leggere nelle tue parole una sostanziale ammirazione strategica, diciamo così, tattica, delle ultime ore per come sono state gestite dallo staff McCain. Se me lo confermi, e poi voglio sapere se secondo te alla fine questo dibattito stanotte vale la pena che lo aspettiamo. Sì, c'è stata sicuramente una manovra spregiudicata sul piano strategico. Io personalmente, sul piano personale, non la trovo eticamente corretta, ma poi in politica, certo, si deve vincere, certo, e quindi staremo a vedere quale sarà l'impatto. In questi casi sono delle scommesse sempre molto rischiose, perché non si sa mai come vanno a finire, l'opinione pubblica alla fine non è fessa, come si dice, e dietro queste manovre non legga qualche cosa di più, ma sai, qui siamo in territorio inesplorato, stiamo, certo, certo, cercando di riflettere e di capire che cosa è successo. Magari avremo degli altri retroscena che continueranno a cambiare questo, certo, quadro. E il dibattito ci sarà, tu pensi, alla fine? Io credo che alla fine, di nuovo, non dovrei fare, certo, questo pronostico, certo, perché poi certo, certo, siamo, certo, smentiti dai fatti, certo, ma io credo che alla fine si metteranno d'accordo, il deadline era per venerdì dovrebbero, per la responsabilità comune, farlo. E alla fine il dibattito ci sarà. Sì, poi l'Instagram. scommettiamo su quello prendendoci le nostre responsabilità. Prendendoci qualche rischio. Poi l'Instagram appunto ha un po' ammorbidito la presa di posizione di McCain, ha detto basta che ci sia un progetto insomma accettabile e l'aereo di McCain scalderà i motori. Grazie, grazie come sempre a Mario Platero per i suoi puntuali commenti di una situazione che, come dicevamo assieme, è in continuo sviluppo. Io vi leggo ancora qualche estratto del discorso, del micro discorso di George W. Bush, che ha dato un altro scossone, probabilmente non a caso, subito dopo l'apertura della borsa. 5 minuti dopo ha parlato Bush. Non credo che queste cose, dal punto di vista del setting orario, siano casuali. Ha detto: il governo continua a lavorare con il Congresso per l'approvazione di un piano di soccorso consistente. Abbiamo davanti un duro lavoro, non ho dubbi sul fatto che riusciremo a farlo approvare velocemente. Ha detto ancora che ci sono divergenze, ma repubblicani e democratici troveranno un punto d'incontro su un piano bipartisan che risolverà la crisi dei mercati finanziari. Un Bush che, per quanto abbandonato o perlomeno contraddetto da buona parte del suo partito, si sta muovendo comunque con una certa efficacia, se non altro nella gestione formale di quella che è una crisi la cui sostanza e i cui contenuti invece sono tutti da scoprire e da esplorare, come appunto dicevamo, e la cui dimensione, no, i cui confini probabilmente sono tutt'altro che nazionali. Gradiremmo anche dei vostri commenti su quanto si sta muovendo al momento. Il numero lo conoscete, un sms al 349-238-6666 per partecipare a Jefferson Ming di oggi. Prima pagina. E allora, se l'America piange di fronte a questa crisi economica, finanziaria, che davvero sembra non conoscere confini, la Cina continua a fare i conti con quello che è lo scandalo del latte contaminato, che ci ha purtroppo, per la Cina e per noi anche, accompagnato in tutta la settimana. Io, Stefano, un po' di notizie in ordine sparso, certo, sul latte, quindi comincerei dall'ultima in ordine di tempo, freschissima, di pochi minuti fa, che arriva da Hong Kong, che come sapete è Cina, ma poi ha un sistema sia politico che economico del tutto autonomo. Le autorità di Hong Kong hanno appena annunciato che sono state trovate tracce di melamina in crackers e cereali per neonati. Fanno anche i nomi delle aziende coinvolte e quindi hanno chiesto alla Heinz, che produce questi cereali, e poi la Silanghaus, che produce invece i crackers wasabi alle patate, insomma, di ritirare i loro prodotti dal commercio. Ricordo che per ora le vittime del latte contaminato alla melamina sono 4, ma addirittura sono più di 50.000 i bambini finiti in ospedale intossicati. Beh, la lezione che arriva da Washington, da Pechino, da Hong Kong, è che comunque non c'è più confine che tenga, no? Le crisi anche alimentari sono globali. Una crisi ormai traversa i confini senza difficoltà. E sempre sulla questione del latte c'è una dichiarazione non proprio serenissima del responsabile per la Cina dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, si chiama Hans Troedsson, che oggi ha tenuto una conferenza stampa a Pechino e ha detto di non escludere la possibilità di altri decessi di bambini a causa del latte contraffatto. Poi è entrato nel dettaglio, ha detto che probabilmente questo scandalo è stato causato da un misto di ignoranza e di deliberati ritardi nel denunciare la situazione. Qui c'è questa polemica neanche troppo sotterranea sul fatto che le notizie dei primi casi addirittura risalissero alla primavera, se non addirittura all'inverno scorso. Poi in qualche modo il tappo delle Olimpiadi, finché non è saltato, ha tenuto nascosto tutto lo scenario, tutta la situazione. Ha parlato anche il commissario europeo per il commercio estero, per il commercio, Peter Mandelson, che appunto si trova anche lui in Cina, e che ha detto che il governo cinese invece ha agito in modo appropriato, quindi due punti di vista piuttosto diversi. Come up and say this is my plan, this is my perspective, we need people to fall in line behind it. He is rather. Dunque ci sono sulle televisioni americane delle divertenti, possiamo dire così, immagini che arrivano dalla Università del Mississippi, da questo meraviglioso edificio coloniale tutto bianco all'interno del quale forse si svolgerà il debate stasera, ma per farci capire, mentre ecco altre immagini ora ci rimandano l'arrivo di John McCain in Campidoglio, nel suo ufficio in Campidoglio, dove prende posizione in attesa poi di partecipare anche alla prossima riunione del comitato, cosiddetto comitato economico. Ma comunque invece da Oxford, Mississippi, cominciano a mettere le mani avanti, dicono sì, ci sarà il dibattito, può darsi che magari lo facciamo un po' in ritardo, naturalmente il governatore in ritardo di quanto? Giorni, ore? No, di ore, beh c'è una divertente dichiarazione del governatore del Mississippi che naturalmente si sente sfilare la sedia da sotto il sedere, si chiama Halle Barbour, è un repubblicano ed è anche una figura centrale, una figura importante, una figura ricorrente del congresso americano, che è detto non se ne parla neppure, tanto abbiamo fatto per portare il debate in Mississippi. Si farà, anzi ci sarà un grande dibattito, uno storico dibattito, e siamo tutti molto eccitati a questo riguardo. Hanno anche chiesto al conduttore del dibattito, al moderatore del dibattito, che si chiama Jim Lehrer, un famoso, stimato, apprezzato giornalista, se intende, come annunciato inizialmente, rispettare fino in fondo il programma per questo primo dibattito, che doveva essere quello dedicato alla politica estera, doveva essere quello che quindi apparentemente, ma ormai sembra di parlare di secoli fa, favoriva, no, un John McCain più collocato sui panorami della politica estera, e doveva mettere, far giocare un po' fuori casa Barack Obama, ma ripetiamo, tutto questo ormai è quasi preistoria nella incredibile storia invece di questa campagna elettorale. Jim Lehrer ha detto: guardate che lo so benissimo, sono un giornalista, so qual è la storia al centro del palcoscenico mediatico in questo momento, so che la crisi è sulla bocca e nella testa di tutti, quindi state pur certi che se si arriverà a fare un dibattito, I'm not restrained, non sono certo obbligato a evitare domande riguardante la crisi finanziaria. Però come al solito, sempre questi saloni vuoti dell'Università di Oxford, Mississippi, ancora non si sa che cosa succederà. Comunque Stefano, credo che basterà seguire le orme dei candidati, insomma, se si muovono da dove stanno adesso e prendono l'aereo per andare in Mississippi. Però loro hanno detto con un certo sprezzo del pericolo di noi uomini normali, dall'accampamento di John McCain, hanno detto: guardate che noi siamo una grande campagna e se vogliamo arrivare a Oxford, Mississippi, molto in fretta, ci arriviamo molto in fretta, nel senso, dateci un'ora e siamo lì. Anche questa. Invece noi riannodiamo il filo con il latte contaminato, che domina naturalmente le notizie che arrivano dalla Cina, ma veniamo al vicino, alla nostra Italia, perché c'è un paese in provincia di Treviso, si chiama Quinto di Treviso, che di fronte a questa paura più o meno fondata di bere latte che non sia proprio tipicamente italiano, latte DOC, sembra pronto addirittura a ritornare al latte sfuso, cioè quello che arriva direttamente dalle stalle locali. Quindi la Coldiretti di Quinto di Treviso, che è un paese di 10.000 abitanti e si trova a pochissimi chilometri dal capoluogo, dalla capoluogo di provincia Veneto, insomma sembra pronto a questo ritorno un po' all'antico. Non si sa mai che passi un po' di latte cinese dalle nostre parti, anche se credo che le rassicurazioni che sono arrivate dal Ministero dell'Agricoltura, dalla stessa Coldiretti, ci possono tutti, credo da questo punto di vista, stare piuttosto tranquilli. Oh, invece una guerra è scoppiata davvero, anzi impazza sera dopo sera, è quella fra il più apprezzato, almeno insomma da una parte d'America, gestore di talk show americano, David Letterman, e John McCain, che gli ha tirato buca due sere fa, non l'avesse mai fatto. Se l'è legata al dito. Se l'è legata al dito, ogni sera dedica praticamente la totalità del suo programma a farlo nero, l'ha rifatto nuovamente ieri sera, ha accolto il suo pubblico di dicendo: allora benvenuti, questa sarà una buona serata, nessuno dei nostri ospiti per ora ci ha dato buca, e poi ha fatto in modo che il nome di McCain spuntasse da ogni angolo della puntata di ieri, e allora lui faceva la faccia truce e diceva: funziona così, non vuoi venire a vedermi, non vuoi venire a trovarmi, beh forse non vedremo te il giorno dell'inaugurazione. His father was ex some days for 14 hours in dollar. His mama goes scrub the floor so many, and I declare, the woman hardly makes a penny. She be dancing up in Atlanta, just enough for sitting. And misery with all the pain and all the rats and the roaches and the mud in the streets and all the drugs and the rape going around. I have my electricity cut off. My gas don't burn no more. And even the water has stopped flowing. And my poor family is cold and hungry. Oh, Lord, why has thou forsaken me? Sapete che vi dico che adesso li lasciamo un momento riunirsi, no? McCain, Barack, Bush e gli altri chiudessero la porta, poi insomma ci facessero sapere. Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Voglio solo leggere, dare lettura a uno dei tanti messaggi arrivati, che mi sembra un'ottima idea. John McCain dice: il messaggio rispolvererà la tuta da pilota della Air Force e si farà prestare un F-16 per arrivare in tempo in Mississippi. Ecco fatto, la soluzione era facilissima. Invece alla fine è successo e siamo felici di annunciarlo. Poi in questo venerdì per noi è sempre un giorno un po' particolare, chiude la settimana del programma, insomma abbiamo a lungo parlato, discusso, presentato, anticipato, commentato, raccontato addirittura da Pechino la storia di Silvia Cortella, in arte Emma Re a tutti gli effetti, da oggi in poi memorizzate questo nome, e finalmente è venuta a trovarci in studio. Alcuni di voi lo sapranno benissimo perché seguono il programma, agli altri lo raccontiamo noi. La storia di Silvia è la storia di una cantante professionista che a un certo punto nel corso della sua carriera ha avuto l'occasione di presentarsi sul mercato cinese, tra l'altro con delle coincidenze legate all'imminenza delle Olimpiadi di Pechino 2008. Ha saputo sfruttare molto bene questa occasione per presentarsi a un pubblico straordinariamente sterminato a quel punto, e adesso è tornata in Italia, la sua carriera prosegue, ma c'è questa finestra costantemente aperta sulla Cina, di cui vogliamo parlare insieme a tante altre cose e insieme ad altri ospiti che sono venuti ad accompagnarla e che presentiamo. E sono Mr. Wang, che è il direttore di BTV, la televisione di Pechino, la seconda più importante della Cina, e il manager che segue Emma Re in Cina, che si chiama Zhang Ji, e li salutiamo entrambi. Buongiorno. Allora, Silvia, Emma, come ti chiamo per discorrere? Scegli quello che vuoi dire. Silvia va benissimo, vabbè. Mi avete scoperto voi così, direi. Quindi. Allora, questo ritorno coincide poi, no, con una ripartenza della tua carriera che deve tener conto, no, di questo episodio, questo passaggio per la Cina che ha rappresentato una specie di, no, di giro di boa. È così? Sì, rappresenta davvero un inizio e un continuo, perché adesso sono qui con loro in grande pompa magna, sono molto contenta di averli portati qua, perché da qui insomma è iniziato qualche mese fa tutto e continuiamo a lavorare insieme con la mia discografica e con i loro progetti televisivi e musicali. E devo dire che Io sono italiana, questo è ufficiale, certo. Direi su questo, non okay. possiamo dire nulla, okay. e quindi ci tengo molto a continuare comunque anche la mia carriera certo. qua in Italia, e quindi a presentare il singolo, adesso uscirà un nuovo disco poi alla fine novembre, eccetera. Chiaramente in contatto diretto con la Cina, dove il 12 ottobre esce, viene trasmessa la prima puntata di The Legend of Bruce Lee, questo colossal serial televisivo di cui io canto incredibilmente la sigla, e sarà un programma trasmesso in due puntate al giorno per 25 giorni consecutivi sulla prima rete nazionale, quindi sono molto contenta, vedremo cosa succede, vi dirò tutto. Insomma, raccontare ai cinesi, no, a Milano, la storia di Bruce Lee, non so come raccontare agli italiani la storia di Gigi Riva. Io credo che sarà una saga attesissima dai cinesi, perché sono 50 puntate che andranno in onda ininterrottamente per due mesi in prima serata, quindi certo. credo che 500 milioni di cinesi almeno guarderanno questo grande appuntamento. So anche, perché tu Silvia ce l'hai detto prima di andare in onda, che per far cantare una non cinese un prodotto fatto in Cina hanno dovuto fare una legge apposta. Guarda, questa è una cosa incredibile. È una cosa strepitosa. Cosa è successo? Ci puoi raccontare sì, questo? Ma, tra l'altro, dettaglio. Mr. Zhang Yi mi ha detto questa cosa mentre eravamo in macchina facendomela passare così. Perché ci chiedevamo come mai continuava a venire rimandato la programmazione. Perché in effetti colossa. I nostri primi contatti risalivano sì. più o meno a primavera scorsa, sì. quando in teoria la fiction, la serie TV doveva partire esatto. e concludersi con l'inizio delle Olimpiadi, quindi era una sorta esatto. di tappa di avvicinamento. Effettivamente questa grande produzione non partiva mai. Non e partiva abbiamo mai, abbiamo chiesto. E solo quando gli hanno effettivamente dato la delibera, per cui hanno chiesto al Ministero del TV and Broadcasting una delibera speciale, perché non è mai successo che un serial prodotto in Cina fosse accompagnato da una sigla di una cantante straniera. È la prima volta. Proviamo a chiedere a Mr. Wong qualcosa in particolare. Tell me something about this story of an Italian singer in the Bruce Lee series. The presence of an Italian singer is something strange, something new for the Chinese television. 请您 告诉我一些关于这个意大利的歌手在意大利在中国的电视剧 李小龙传奇里面的Triangoliamo un passaggio cinese inglese certo italiano 我先借助这个平台呢向所有的意大利观众呢听众这个道个下午好 Mr. Wong would like to use your platform to say good afternoon to all the audience of your sta salutando e dà il buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24 这个李小龙传奇呢，是这样，是在中国非常重要的一个五十集的电视国家的五十集的电视连续剧。 Legend of Bruce Lee is a very important TV play series in China. E ci ha detto che la produzione di Bruce Lee di questo serie su Bruce Lee è considerato di grande importanza in Cina. 对，它是第一次被拍成。 电视连续剧，而且在10月12号要在中国的中央电视台第一套播出。 It's the first time for the story of Bruce Lee was made in TV play. Per la prima volta la storia di Bruce Lee, che è un eroe sovrumano, insomma, per i cinesi, viene presentata in forma televisiva. And it is consists of 50 episodes and will be televised in the most important TV channel, that is CCTV One. E viene appunto presentata nei 50 episodi che vi abbiamo annunciato in una televisione di grandissimo prestigio per il territorio cinese. 那么呢，就是这个主题歌的选择呢，说起来也很戏剧化。这个，那么说我第一次听到这个，我在吃饭的时候哈，我在吃饭的时候正好隔壁呢，这个。 第一次听到这个希尔维亚的声音的时候，令我很震惊，因为呢选择这样一个歌手，本来我们想选择的就是一个外籍的歌手，原来比如说想到席琳迪翁，想到美国的一些大牌歌星，那么说呢，因为李小龙呢曾经在国外生活了很多年。Talking about that to choose Sylvia to sing for the topic song of The Legend of Bruce Lee. It's a little bit dramatic. E la scelta, insomma, l'individuazione, la selezione di Silvia come la voce musicale, la cantante della sigla di questo importante programma su Bruce Lee è stato drammatico, secondo la definizione che c'è da yes. Mr. Wong. One day, Mr. Wong is having dinner in a restaurant in Beijing. He listened in the background in the restaurant. come out a very nice voice. Questa è la storia che noi conosciamo, vero, vero Silvio? La storia, sì, di un giorno così, in un ristorante in cui Mr. Wong sente nel sottofondo, nell'aria. Beh, ti dirò che è la prima volta che lo sentiamo dall'altra parte, però, certo, perché ne hanno scritto e parlato tutti, certo, però questa è la prima volta che lo sentiamo. Mi rendo conto che penseranno che sia una trasmissione cinese, ma di questo stiamo parlando. Certo, certo. Go ahead. And since before they are planned to find a foreign singers to sing, mm-hmm, for this TV play, mm-hmm, originally they are considering about Celine Dion or, mm-hmm, other American big sure stars. Beh, so, questo è un complimento di prima categoria. Silvia, in pratica, per farla breve, ha detto fatti più in là, ha dato uno strattone a Celine Dion, insomma. Ma io ho sentito la prima volta 第一次呢，我邀请他到北京去参加了一个奥运的倒计时的大型演唱会， 请他去参加的。 And he had invite 2007年的 8月7号 8月8号 After he heard Sylvia Emirates' voice, he invited her to China to have two concerts. Mm-hmm. One is for the cutting down ceremony for Olympic Games. That, mm-hmm, is 2007, October 8th, 2007. Sono nel, Silvia? Questa qua si sta dicendo i primi due concerti, certo, che ho fatto lì per il countdown, l'apertura della, certo, cerimonia olimpica nel 2007. Nell'ottobre 2007. Sì, esatto. Credo unica occidentale ammessa a questa inaugurazione dell'anno olimpico. Ve l'ho detto, sono Marco Polo in versione femminile. Va bene, ci dobbiamo fermare perché arriva uno spazio istituzionale del traffico, ma che cosa ascoltiamo? Anche perché qui stiamo parlando di un nuovo disco con una edizione in cinese. Poi alla fine questa è la notizia. Sì, con fatica e onore allo stesso tempo sono riuscita a incidere due canzoni, mm-hmm, in cinese, mm-hmm. Ora non so se va in onda proprio, sì, quella, sì, in cinese, o se va in onda la colonna sonora di Bruce Lee. Sonora di Bruce Lee. Partiamo con quella, visto che l'ha scritta Mr. Wong. È stata presentata insieme in modo sontuoso da Mr. Wong. Adesso l'ascoltiamo. nota ai nostri ascoltatori. Ragazzi, non stiamo mica al telefono come siete abituati, Shanghai, perché qui siamo tutti in studio, stiamo triangolando traduzioni formidabili. Lentamente italiane. Stiamo portando tutti i nostri amici in studio. Ma stiamo anche prendendo quota, caro Emiliano. Qui ormai non c'è più confine, ma soprattutto c'è Silvia Cortella, in arte Emma Re, che ci sta raccontando, così in un certo senso sta facendo una specie di bilancio, no, di questa straordinaria avventura artistica in Cina, e la sta connettendo sia appunto con l'universo dei media cinesi, che è rappresentato oggi qua dal signor Wang, il boss della televisione di Pechino, che poi appunto con questa uscita di questo disco, che diventa una specie di canale parallelo, no? Lei continua, come dice, a fare una carriera naturalmente nel nostro paese, e ha ormai questa specie di doppia cittadinanza artistica. Me la passi questa? È bellissima, anzi la riuserò se mi dai il copyright. Va bene, Emiliano, dimmi. No, volevo intanto capire, l'abbiamo già detto altre volte, come nasce poi Emma Re come nome d'arte, che è in funzione soprattutto anche della pronuncia cinese, no? Che magari con Cortella avrebbero avuto qualche problema in più. Sì, in tanti mi hanno detto: vabbè, hai scelto Re come cognome, che ha una R, e quindi i cinesi vanno per Emma-le. No, però Emma-re è un suono che suona bene in tutte le lingue, devo essere sincera. Loro si sono appassionati subito, è nato da una chiacchierata con mia sorella, sentivamo l'esigenza di fare un cambio di rotta. Io sono tanti anni che canto, che giro per l'Italia eccetera, e questa nuova avventura cinese mi dava la possibilità di reinventarmi una vita, e gli ho dato un altro nome, ecco. E invece con la lingua cinese cantata come sta andando? Perché noi all'inizio avevamo addirittura lanciato l'ipotesi del mongolo cinese, no? Che dovevi tradurre, insomma, come sta andando con, guarda, sta andando benissimo, con il cimento, con la lingua che è diversissima. Intanto oggi ho imparato un'altra frase fondamentale per la mia vita, salutiamo. Che è wo ai ni. Well, honey? What, yeah, what was it? Was it good? Was it good? Significa ti amo. Beh, dico, voglio dire, impegnativa. Non vorrei prendermi degli impegni troppo grandi. Ho visto Mr. Wong che si è emozionato. chiediamo a Mr. Wong, how's the Sylvia's Chinese? Subito è stroncata. Very good. Very good. Va bene, abbiamo un, secondo me, molto molto diplomatico. Sì, decisamente diplomatico. Una diplomazia globale. Vabbè, cioè, comunque ho inciso davvero queste due canzoni in cinese con l'aiuto di Alessandra Semeraro, una ragazza meravigliosa italiana che si sta laureando in cinese, e ci siamo chiuse in studio e abbiamo provato a dare un senso cinese, dico un senso cinese davvero, perché poi lo sai che il cinese è una lingua a toni, no? Uh-huh. E quindi dipendentemente se dici ni hao, ni hao, cioè vuol dire proprio due cose completamente diverse. Quindi io sempre l'angoscia mentre cantavo. Ormai ti esibisci in cinese davanti a cinesi. Beh, cioè, ormai hai rotto. Ho sempre paura di dire quelle frasi, sai, che non vorresti mai dire davanti a 90.000 persone, non lo saprai mai. Senti, chiediamo, siccome i fan sicuramente sono all'ascolto, i fan di Bruce Lee in Italia sono una legione, sono sterminati, chiediamo rapidamente, quickly, we can ask to Mr. Wong if the Bruce Lee serial will be aired in Italy too. Abbiamo chiesto se verrà presentato anche in Italia questo Colossal su Bruce Lee, se c'è questa possibilità. We are try, maybe we can make it be televised in also in Italy. 我问一下这个意大利的朋友们知道 Bruce Lee 吗？ Mr. Wang would like to ask the friends and your audience in Italy, do they know Bruce Lee? Sure. Dunque, ricordiamoci di avere anche degli ascoltatori, scusateci. Mr. Wong vuole sapere, fondamentalmente, dice naturalmente la possibilità c'è, sarebbero ben felici di venderlo alla nostra televisione, e ci ha chiesto se sappiamo in Italia chi è Bruce Lee. Ma Bruce Lee is a hero in Italy. Till now, you can buy Bruce Lee DVDs in every. C'è anche un suo film che ha delle scene straordinarie al Colosseo, cioè, nell'ambientazione dell'antica Roma. Con un giovanissimo Chuck Norris che combatteva contro di lui. Sì. Gli abbiamo detto che è tuttora un eroe, che ha girato anche un film in Italia. He's a very popular star. In Italy. 他在意大利非常出名，你甚至在很多商店里都可以买到他的 电影. Io penso che ci potrebbe essere proprio una richiesta corale, no? Dalla audience. Un appello, un appello per il film di Bruce Lee. Possiamo promuovere, possiamo promuovere un appello per il film di Bruce Lee. Mi suona. 那看完 Bruce Lee, 肯定都认为中国人是全会功夫的了，是吧？ So I think that maybe all the people in Italy. Yeah. After watching the film of e anche Mr. Wong si associa, vuole. Everybody, well, Italian will think that all Chinese will have kung fu. Insomma, certo, kung fu. But it's not the case. Allora, ricordate, la parola d'ordine è kung fu. Se la pronunciate molto forte, mandate tanti, tanti sms, il codice si diffonderà, la catena di Sant'Antonio. Io credo che un serial su Bruce Lee fatto in Cina oggi, no? Scusi, interrompo. Abbiamo fatto un singolo che si chiama My Name is Bruce Lee, è stato in classifica un bel po' di settimane, e ispirato proprio a questa mia esperienza in Cina. E devo dire che abbiamo avuto una risposta ai fan club di Bruce Lee, certo, incredibile, che se la sono messa tutti nel proprio computer, nel proprio, no, perché a parte che inizia col wata, uno spicchio di cuore. 就像我听完这个谢尔亚唱歌以后 Mr. Wong ha capito che può fare la sua promozione. Just that Mr. Wong after listen her Sylvia's voice, certo. her sing. He thinks that all the Italian girls can sing like. Come. Va bene, le ragazze italiane canteranno come Silvia Cortella, questo lo diremo, spiegheremo dopo a Mr. Wong. Comunque la sigla c'è, il serial c'è, una carriera c'è, c'è anche un ultimo pezzo che ascoltiamo che invece è un pezzo nuovo, che cos'è? Guarda, la versione cinese di I Still Believe, siccome voi siete stati, voglio dire, meravigliosi, ma anche siete stati i primi, insomma, che avete portato. I Still Believe, ogni volta che entravi in onda la mandavamo, esatto, prima, no? Di te, insomma. Allora ho pensato di portarvelo qui in trasmissione, di farvi sentire questa versione cinese cantata da me in cinese, chiedo scusa a tutti i cinesi, ma comunque ci ho provato e secondo me è venuta anche, tra l'altro, bellissima. Ecco, è già partita. Io ne approfitto per salutare tutti gli ascoltatori, ma anche per salutare i nostri ospiti. Thank you to be here today. Mr. Wong, per salutare Silvia, grazie finalmente di esserci venuta a trovare. Grazie a voi. E finisce la settimana di Jefferson Ming. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi. Jefferson Ming, tradi24.it, replica alle 9, appuntamento lunedì alle 4 con tutte le notizie dal mondo che sempre vi diamo da Radio 24. 我相信 我们要做好，是血洗情缘，我们的事忘了，我恨自豪尽了情，我生命不自由。